America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Unfortunately, the Russian-backed separatists who control the area continue to block the investigation. They've repeatedly prevented international investigators from gaining full access to the wreckage. La tragedia del volo MH17 precipitato nei cieli dell'Ucraina, Barack Obama attacca Vladimir Putin, dice i ribelli filorussi continuano a ostacolare le indagini, stanno rimuovendo le prove dal luogo del delitto. Cosa devono nascondere? Putin ha la diretta responsabilità di assicurare che le indagini possano proseguire, ha detto Obama. And it is important for Hamas to now step up and be reasonable and understand that you accept a ceasefire, you save lives. John Kerry, il segretario di Stato invece al Cairo, ha già annunciato aiuti per 47 milioni di dollari, chiede che le parti, Israele e Hamas, vengano a più miti, consigli, chiede un cessate il fuoco, chiede di ascoltare il messaggio in arrivo dal Cairo, un piano egiziano. Solo così, dice, si può riavviare un dialogo per la pace in cui discutere tutte le questioni irrisolte. L'America dunque è tornata in azione e c'è una divisione dei compiti a Washington davanti a questa doppia crisi, in Ucraina da una parte, in Medio Oriente dall'altra. Il presidente Barack Obama si occupa di Mosca e del confronto diretto con la sua nemesi, Vladimir Putin. Il segretario di Stato John Kerry si occupa di Medio Oriente, di Hamas, di Israele. Obama si è rivolto ieri direttamente a Putin per chiedergli trasparenza, cessazione di ogni ostilità in Ucraina, restituzione di territori occupati. Entrambi, Obama e Kerry, hanno un obiettivo preciso: trasformare in una opportunità questa gravissima crisi che giovedì scorso ha portato la credibilità americana in politica estera ai minimi storici dopo l'attacco al volo MH17 e dopo l'attacco israeliano su Gaza. E dal Cairo, devo dire, Kerry secondo me non vuole solo impostare un cessate il fuoco sulla base delle intese del 2012, ma chiederà, e del resto lo ha detto lui stesso poco fa, chiederà un accordo che possa restituire vigore alla sua azione per il processo di pace in Medio Oriente. Dunque il tentativo di un rilancio. Obama vuole isolare la Russia, chiarire che non ci saranno sconti per chi si è macchiato direttamente o indirettamente di un delitto che ha portato a una morte orrenda alle 298 persone sul volo MH17. E ieri ha confermato le accuse a Putin e lui ad aver armato i ribelli con le batterie di missili SA-11 che hanno abbattuto il volo malese. Sentiamo la risposta di Putin. 28 Украины не были бы возобновлены, то и этой трагедии наверняка бы не произошло. Putin, beh, rilancia a suo modo. Sappiamo che la Russia ha sempre organizzato una campagna stampa molto aggressiva e vi dico testualmente cosa dice il leader russo. Nessuno ha il diritto di usare questa tragedia per raggiungere i propri obiettivi politici, dice Putin. Questa tragedia non deve dividerci ma unirci. Bisogna che i responsabili rispondano della loro azione sia di fronte al loro popolo sia di fronte al mondo. Occorre inoltre fare tutto il necessario per garantire la sicurezza degli esperti internazionali al lavoro sul luogo della tragedia. Da parte nostra stiamo facendo tutto il possibile perché il conflitto in Ucraina orientale passi dalla fase militare alla fase negoziale. Ecco, dobbiamo anche dire che da Mosca ci sono state illazioni secondo cui c'era un aereo che volava vicino a un jet malese, dicono era un caccia, insomma ci sono delle insinuazioni che escludono l'ipotesi del missile. Beh, insomma, io credo che questo sia un po' arrampicarsi sui vetri. Direi che la cosa più importante è fare chiarezza. Ha ragione Putin quando dice dobbiamo unirci, e dobbiamo unirci anche, devo dire, in Europa, perché i 200 morti olandesi sono anche e soprattutto cittadini europei, come è scritto sul loro passaporto. Barack Obama ancora non ha reagito alle riunioni di oggi in Europa, è ancora molto presto, però la posizione americana è chiara: deve essere l'Europa a prendere la leadership per chiedere a Putin garanzie su trasparenza, restituzione dei territori occupati illegalmente, interruzione delle operazioni russe che aiutano i ribelli. You have people who've come out of tunnels. You have a right to go in and take out those tunnels. We completely support that, and we support Israel's right to defend itself against rockets that are continuing to come in. La questione a Gaza, devo dire, è difficilissima, perché ci si perde in una miriade di rivoli diversi, complicatissimi. Kerry, ad esempio, come abbiamo visto, punta sull'Egitto, sulle Nazioni Unite. Ban Ki-moon è già nella regione e vuole tornare alle posizioni del 2012 per chiedere una tregua immediata, ma Kerry dovrebbe coinvolgere nel dialogo anche il Qatar, la Turchia, che sono gli interlocutori più diretti di Hamas, sono anche quelli più ostili a Israele, naturalmente, ma il governo di Abdel Fattah al-Sisi al Cairo ha chiuso con Hamas, perché Hamas era molto vicino al governo precedente, al governo della Fratellanza Islamica, e proprio per questo Hamas non si fida. Il governo di al-Sisi ha rifiutato le proposte di cessate il fuoco arrivate dal Cairo una decina di giorni fa, proposte invece accettate da Israele. È importante che lo schieramento dei garanti sia il più ampio possibile. Sappiamo che Gerusalemme ha degli obiettivi chiari e, devo dire, anche legittimi: vuole distruggere i tunnel, neutralizzare l'arsenale di Hamas che bombarda le città israeliane in continuazione, ma non vuole distruggere Hamas, perché è Hamas che deve garantire l'ordine a Gaza e soprattutto controllare quei gruppuscoli di estremisti che sono ancora più pericolosi di Hamas. Sul piano economico occorre pagare gli stipendi dei 43.000 dipendenti pubblici di Hamas, fermi da mesi, e questo ha alimentato molta tensione. Il denaro c'era, era stato dato dal Qatar, e c'era anche un governo locale che era nato da un accordo fra Abu Mazen, l'autorità palestinese, e la leadership di Hamas. Dunque c'era un governo bipartisan, e il fatto è che questi soldi andavano anche a dei terroristi, e dunque Israele si è opposta. 13.000 di questi 43.000 dipendenti pubblici sono considerati dei terroristi. Per legge non si può dare del denaro a dei terroristi, e dunque Israele si oppone. Una soluzione: separare questi 13.000 dai 43.000. Ecco, potrebbe essere un'idea per andare avanti. Certo, tutti si aggrappano alla speranza che qualcosa possa cambiare. Sentiamo Bill Clinton. I know that Prime Minister Netanyahu could make a peace that a majority of the Israelis would support. Un messaggio di speranza, di rilancio, proprio in sintonia con quello che vi dicevo prima, cioè che da questa situazione di crisi forse si cerca un rimbalzo per ottenere qualcosa di più. La pace in Medio Oriente, dice Clinton, può essere raggiunta. Se Netanyahu firmerà la pace, il popolo israeliano lo sosterrà. Se dirà agli israeliani che è un bene per la loro sicurezza, lo sosterranno. È proprio sotto la leadership di Bill Clinton si cercò di raggiungere un accordo di pace. Si arrivò fino al gennaio del 2001, poco prima che Clinton uscisse di scena. Fu il negoziato di Taba, l'accordo era definito, mancava solo una virgola, poi alla fine Yasser Arafat non se l'è sentita di chiudere la partita. E dunque speriamo, noi qui continuiamo a sperare, America 24, che da questa crisi si possano gettare le fondamenta per ritornare a Taba, per ritornare a quell'accordo che di fatto era stato concluso. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, devo dire, l'atmosfera è un po' gloomy, un po' negativa, però l'estate va avanti anche per noi, perché con la fine di questa settimana faremo la tradizionale pausa estiva d'agosto, e dunque voglio proporvi un tuffo nel passato verso tempi più felici, qualche canzone estiva americana, a partire da Itsy Bitsy Tiny Weenie Yellow Polka Dot Bikini di Brian Hyland, numero uno nella hit parade americana l'8 agosto del 1960, quando tutti erano più spensierati. 2, 3, 4, tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weenie yellow polka dot bikini that she wore for the first time. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.